Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi. Oggi è il 30 dicembre, Italia in controluce, la cronaca italiana, la politica nera e giudiziaria, il costume, lo spettacolo e anche la cultura. Torre Annunziata, non è un paese ma è una città nella città. Case popolari fatiscenti, cresciute negli anni del boom economico e della speculazione edilizia, tirati su in fretta. Torre Annunziata, non è un paese ma è ancora Napoli. Giancarlo Siani ha 26 anni, è un collaboratore precario del Mattino. Articolo dopo articolo si conquista la fama di cronista specializzato in una terra senza confini precisi delineati, dove la camorra è lo Stato. Lui proviene dai quartieri alti di Napoli, dal Vomero, una zona ricca, lontana da Torre Annunziata. Siani sta tornando a casa con la sua auto. I killer lo aspettano sotto la sua abitazione in Piazza Leonardo. La sua corsa di cronista di nera in una terra che non è dello Stato si ferma alle 21:40 il 23 settembre del 1985. A distanza di molti anni da quell'omicidio, oggi resta la memoria di Giancarlo Siani. Libri e soprattutto due film. Uno di questi è stato girato dal regista Maurizio Fiume e Io ti seguo esce ora su DVD, praticamente rimontato per l'occasione. Daniela Binello ha intervistato per Italia in controluce il regista Maurizio Fiume. Allora, Piazza Leonardo, omicidio confermato. Si tratta di un giornalista del Mattino. Come? Forse hanno ammazzato un giornalista, uno dei nostri, a Piazza Leonardo. Enrico, ma in Piazza Leonardo non c'è il direttore? C'è il direttore, sì, c'è il direttore, vabbè, ma il direttore c'ha la scorta. Grazie. Enrico, si tratta di Giancarlo. Come? Come Giancarlo? Io ho sempre pensato che se Giancarlo Siani non fosse stato ucciso, probabilmente avremmo avuto 25 anni fa un Roberto Saviano, quindi saremmo arrivati alla considerazione che oggi abbiamo della camorra con 25 anni di anticipo. E se pensiamo come viene trattato Roberto Saviano soprattutto a Napoli, insomma è chiaro che c'è qualcosa che ancora non funziona, anche se molta strada è stata fatta, perché appunto oggi comunque siamo arrivati a sapere delle cose che appunto 25 anni fa non ci sono state dette. Maurizio Fiume ha conosciuto Giancarlo Siani, il cronista del Mattino che fu assassinato dalla camorra il 23 settembre del 1985. Fiume ha voluto raccontare dal suo punto di vista nel film documentario E io ti seguo il contesto in cui maturò la decisione di eliminare Siani. Nella nuova versione in DVD il docufilm è stato totalmente rimontato. Per cui il film in realtà viene raccontato da tre punti di vista. Uno è quello di Giancarlo Siani che fa il giornalista e fa il lavoro giorno per giorno di inchiesta, di messa in relazione dei dati, perché lui non scriveva soltanto dei pezzi, metteva in relazione i dati e deduceva da questi dati delle informazioni anche di correlazione tra il potere criminale e quello politico e imprenditoriale. Poi abbiamo un secondo piano che è quello invece dei camorristi che percepiscono il lavoro di Giancarlo Siani secondo appunto le ricostruzioni dei pentiti, e poi abbiamo un terzo piano che è la società borghese, imprenditoriale, politica, culturale, ma anche quella dei giornalisti napoletani che rispetto al lavoro di Siani avevano anche un atteggiamento non favorevole. Qual è appunto questa tua versione dei fatti e qual era il tuo rapporto nello specifico con Siani? Un rapporto di amicizia, di frequentazione o un rapporto professionale? Cioè, da premettere che io in quegli anni avevo conosciuto Giancarlo Siani e quindi avevo una valutazione di prima mano del lavoro, di come lui lo svolgeva e del suo atteggiamento nei confronti appunto di questo contesto, per dirla alla sciascia. Io in quel periodo cercavo anch'io di fare il giornalista a Napoli. Giancarlo Siani faceva un corso di giornalismo con Amato Lamberti, che era allora direttore dell'Osservatorio sulla Camorra, e quindi ho conosciuto Giancarlo Siani, l'ho frequentato per un anno in questo corso in cui lui ci spiegava come faceva il suo mestiere e quali erano le sue aspettative rispetto a questo lavoro e quali erano le sue considerazioni del contesto, e quindi io da questo contesto ho sempre trovato dei problemi. problemi, diciamo, di come venivano ricostruiti dai media invece il lavoro di Giancarlo Siani. Qual era il contesto? È che Giancarlo Siani sicuramente è stato ucciso, siamo arrivati alla terza sentenza, anche se adesso è stato riaperto il caso, però diciamo siamo arrivati alla terza sentenza, che è stato ucciso dai camorristi, i camorristi che avevano fatto già il passaggio entrando dentro Cosa Nostra, dentro la cupola, e quindi non era vero quello che si pensava all'epoca, che la nuova famiglia non facesse parte della mafia. Questo è vero, però è anche vero che, come dire, l'eliminazione di Giancarlo Siani faceva comodo ad altri livelli sociali, e questi erano appunto gli imprenditori, i politici e anche alcuni giornalisti che non vedevano di buon grado il lavoro di Giancarlo Siani. Ancora oggi, mi pare. Come dire, ovviamente ci sono le cose che circolano nell'aria e diciamo l'ambiente culturale e intellettuale napoletano, quello è. Io Roberto Saviano l'ho conosciuto prima che scrivesse Gomorra, perché faceva il lavoro giornalistico ed era uno dei bravi giovani giornalisti che ci forniva delle informazioni che altrove non passavano. Secondo me Gomorra è frutto di un lungo percorso in cui appunto c'è anche il lavoro di Giancarlo Siani, è fatto di quotidianità, ma di quella quotidianità di cui spesso c'è bisogno, e il lavoro anche di Roberto Saviano, di Gomorra, film e libro eccetera, ci hanno aiutato a comprendere non solo quel fenomeno ma anche una realtà che altrimenti non riuscivamo a percepire. Italia in controluce. Mancano poche ore alla fine dell'anno e inizia la campagna di dissuasione per l'utilizzo di fuochi d'artificio pericolosi. Da Napoli, a racconto di Paolo Piccone. Mai come quest'anno, con la spazzatura che invade le strade, i fuochi di Capodanno rappresentano uno dei più grandi timori della prossima notte di San Silvestro a Napoli nei comuni della provincia. Qui ogni anno, nonostante i ripetuti sequestri compiuti dalle forze dell'ordine, il copione è sempre lo stesso. Si spara di tutto, dal piccolo petardo alla bomba artigianale, e le conseguenze sono terribili, con decine e decine di feriti, molti dei quali sono bambini. Proprio da quest'ultimo dato prende spunto la campagna, giunta ormai alla 15ª edizione, di Papà, quest'anno non sparare, patrocinata dall'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, e dall'UNICEF. Margherita Diniciacci è la presidentessa dell'UNICEF Campania. Ci siamo altresì accorti oggi che bisogna riprendere il discorso, perché non è possibile che ogni dopo primo dell'anno è un bollettino di guerra, e che bambini devono perdere le mani, devono perdere gli occhi, devono perdere veramente la possibilità di una vita normale per uno stupido gioco. Ma usassero quelli che non bruciano niente e che non fanno male, usassero le stelline, usassero i bengala, tutto quello che è usabile, ma quelli che sono i fuochi illegali, micidiali, non vanno toccati. È un invito ai bambini, ma anche un invito ai genitori. Comprendono che i figli devono restare vivi, come pure l'altra cosa incivile, quella di sparare dei colpi in aria con le pistole. Lo scorso anno perdemmo un ragazzo a Torre del Greco, mi pare, per uno sparo così. Per favore, sparate, sparate i bengala. E pensate che c'è una sola cosa da sparare: sparare la gioia dell'anima di essere ancora vivi, di aiutare tutti gli altri a esserlo. La campagna consiste nel diffondere un video da far visionare alle scuole nei mesi che precedono il Capodanno, e nell'affiggere contemporaneamente un manifesto in città con l'immagine delle ferite prodotte dallo scoppio di un petardo illegale. Quest'anno tra i comuni promotori c'è quello di Santa Anastasia, a ridosso del Monte Somma nel Vesuviano, e con il passare degli anni, visti i confortanti risultati che la campagna stava ottenendo, anche altri enti, associazioni, medici, artisti si sono fortunatamente mobilitati per dare il proprio contributo. Ad oggi, grazie all'impegno profuso da tanti, in particolare le forze dell'ordine, nella regione Campania, detentrice ogni anno del triste primato del più alto tasso di feriti e purtroppo morti, i dati sono sempre più confortanti, ma è pur vero che le lesioni sono sono sempre più devastanti e le vittime sono sempre più spesso i bambini. Purtroppo il fenomeno allarmante è che l'uso e la vendita di fuochi d'artificio fuori legge con il passare degli anni si sta allargando a macchia di leopardo anche in altre regioni e città d'Italia che fino a qualche anno fa erano penalizzate. Durante la notte di San Silvestro solo da un numero esiguo di feriti con danni per lo più superficiali. Questo deve esortare tutti, principalmente le istituzioni, a far sì che le campagne possano essere estese quanto prima a livello nazionale e a rafforzare nel contempo l'opera delle forze dell'ordine che sempre più si stanno impegnando, oltre che in un'opera di repressione, anche di prevenzione. Fuochi fuori legge venduti da quel manipolo di sciagurati venditori di tragedie che anche quest'anno immetteranno sul mercato fuochi sempre più paragonabili a veri e propri ordigni di guerra pur di arricchirsi frettolosamente senza scrupoli sulla pelle di bambini innocenti. La seconda edizione di Italia in Controluce sul sito di radio24.it trovate il blog di questa trasmissione Italia in Controluce, poi su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, su Twitter in Controluce tutto attaccato, la mail controluce@radio24.it. Domani torniamo alle 6:30 con nuove storie, nuovi reportage su Radio 24.